primi la testa con la sabbia sotto il sole, quando pensi che siano troppe le parole. Dimmi se c'è ancora sulle labbra il mio sapore, quando pensi che siano troppe le paure. Parlami d'amore, se quando nasce un fiore mi troverai senza parole, amore. Parlami d'amore, se quando muore un fiore ti troverai senza respiro, amore. Crolla il tuo castello tra la rabbia, sabbia e sole, quando pensi che siamo dolci le parole. Mi dici che c'è ancora sulle labbra il mio sapore, quando pensi che siamo vane le paure. Senza parole, amore. Parlami d'amore, se quando nasce un fiore mi troverai senza parole, amore. Parlami d'amore, se quando muore un fiore ti troverai senza respiro, amore. Senza parole.